Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Gli episodi in cui si contesta alle forze di polizia un uso eccessivo o improprio della forza purtroppo sono frequenti, a torto o a ragione. E d'altronde ancora più frequenti sono le situazioni in cui uomini e donne delle forze dell'ordine rischiano invece oggettivamente la pelle nello svolgimento di operazioni ad alto rischio e più in generale del proprio lavoro. Allora, stasera vogliamo parlarvi di una tecnologia messa a punto da Beretta, che sta per essere lanciata, al momento credo non sia neanche in commercio. Beretta, azienda che, come noto, insomma, produce armi da difesa, da guerra, per la verità in maggioranza armi sportive. La tecnologia si chiama iProtect ed è una sorta di sistema di telemetria concettualmente simile a quello che da anni si utilizza in Formula 1, sistema che può essere di grande aiuto senz'altro agli agenti nelle situazioni a rischio e che però ha anche un potenziale significativo se parliamo di gettare luce su episodi dubbi in cui si sospetta un uso eccessivo della forza. Ne parliamo con l'ingegnere Eugenio Righi, che è direttore del Beretta Research and Innovation Center. Buonasera Righi. Buonasera. Senta, allora, questo iProtect è un sistema composto da vari sensori, un sistema di comunicazione, dietro al quale naturalmente c'è una sala di comando dove poi i dati affluiscono. Allora, partiamo dai sensori che fate indossare alla gente. Che cosa servono? Sì, il sistema è composto basicamente di due elementi. Un indumento intimo sensoriato, quello appunto di cui stava parlando lei, che è dotato di elettrodi in grado di rilevare la frequenza cardiaca, il segnale cardiaco e la frequenza respiratoria. In aggiunta a questi vi sono degli accelerometri sempre nell'indumento che registrano la posizione, lo stato della... La posizione vuol dire se uno è in posizione retta, per esempio, o se è sdraiato per terra, cosa che di solito non è un buon segno. Esatto, è stato così. Ma anche il fatto se la persona è ferma in piedi o se sta camminando o correndo. Certo. Gli accelerometri però ci dicono anche se la persona ad esempio ha subito un trauma violento. Queste informazioni vengono veicolate a tipicamente uno smartphone, ma potrebbe essere anche un terminale radio, che si preoccupa poi di inviare in centrale operativa eventuali problemi che dovessero insorgere. Cioè lo smartphone fa da centralina, raccoglie i dati provenienti dagli indumenti e poi, come adesso vedremo, dall'arma. Ma prego, continui. Ecco, no, ha fatto bene a parlare di arma, perché l'arma è dotata di sensori che sono in grado di rilevare alcuni elementi della sua configurazione. In particolare, l'estrazione dell'arma dalla fondina è un elemento assolutamente rilevato, così come viene rilevata la presenza di un colpo in canna, la posizione della sicura, la presenza o meno del caricatore, di quanti colpi vi sono nel caricatore, e ovviamente lo sparo. A cosa serve tutto questo? Esatto. Serve perché durante il proprio servizio di pattuglia il poliziotto può incorrere in alcuni inconvenienti. Normalmente il poliziotto è abbastanza abbandonato a se stesso. Avendo invece dotato di sensori sia l'arma da fianco che l'indumento intimo, nel caso in cui vi sia un qualche tipo di inconveniente, ad esempio la persona vede dei movimenti sospetti e quindi estrae la pistola dalla fondina, la centrale operativa sa che l'arma è stata estratta, ha una visione della situazione di stress della persona attraverso il segnale cardiaco e attraverso la frequenza respiratoria, ha una visione del fatto se la persona è ferma, sta correndo o sta camminando, ovviamente ne conosce la posizione perché il nostro sistema fa una geolocalizzazione molto precisa. Sullo smartphone, esatto, è in grado di localizzare la persona sia attraverso il sistema GPS sia attraverso sistemi di localizzazione indoor. E per non parlare del fatto che la gente finisce a terra, magari ferito, e lì si sa, si può intervenire immediatamente e andare laddove si trova la persona perché è geolocalizzata, insomma. Ecco, senta, un altro aspetto appunto interessante rispetto anche a episodi di cronaca è che nel momento in cui l'arma viene estratta parte una sorta di registrazione ambientale, un po' come si fa con le scatole nere. Questo in alcune situazioni potrebbe effettivamente aiutare, no, a chiarire se c'è stato un uso eccessivo della forza oppure no, se la gente si stava semplicemente difendendo. Sì, certo, l'estrazione dell'arma o lo sparo di un colpo a maggior ragione può attivare la telecamera dello smartphone. Questo può essere molto utile appunto in quei casi in cui a posteriori poi magari la gente viene accusato di comportamento scorretto, quando invece magari sì. E viceversa, diciamo, può anche avere una funzione deterrente. Dipende da poi come viene utilizzata dalle forze di polizia questa tecnologia. Senta, un'ultima cosa velocissima. Non c'è nessuna interazione in realtà fra la parte meccanica e la parte di elettronica. Questa è una roba importante per una ragione tecnica. Sì, questa è stata una scelta molto precisa. L'arma deve essere affidabile e deve essere assolutamente pronta a funzionare nel momento in cui devo fare il ricorso. Quindi l'elettronica è a corredo, queste informazioni sono molto utili e possono essere fornite. Il funzionamento dell'arma prescinde dall'elettronica montata. Grazie Righi. Buonasera, grazie.